Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ancora chiaramente tiene banco la vicenda Monte dei Paschi, come già vi hanno ricordato i nostri GR e già ieri eravamo in grado di anticipare, oggi è arrivata la conferma che le indagini giudiziarie si stanno allargando, ma stanno anche modificando il loro profilo, nel senso che un quadro accusatorio ipotizzato dai pubblici ministeri di Siena porterebbe, a questo punto ci sono pochi dubbi, all'associazione a delinquere, mentre smentita dalla procura l'ipotesi di un congelamento di alcuni beni del Monte dei Paschi. Nel merito dei magistrati ci sono chiaramente i vecchi vertici del Monte dei Paschi, e quindi Giuseppe Mussari, ma anche l'ex responsabile dell'area finanza Gianluca Baldassarri, il suo vice Alessandro Toccafondi, l'ex direttore generale Antonio Vigni e secondo i pubblici ministeri l'ex vertice della banca avrebbe orientato operazioni fraudolente dell'istituto compiute all'insaputa del consiglio di amministrazione. Nel frattempo anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo, per il momento contro ignoti, con l'ipotesi di manipolazione del mercato, mentre oggi sono stati sentiti il banchiere Ettore Gotti Tedeschi, che è stato per anni responsabile del Banco Santander in Italia e quindi la banca spagnola che ha venduto tre giorni dopo averla pagata 6 miliardi al Monte dei Paschi Anton Venta, però ottenendo 9 miliardi, quindi 3 miliardi in più in tre giorni, e da lì nasce tutta la difficoltà finanziaria, l'aumento di capitale del Monte dei Paschi che porta poi anche alle operazioni spregiudicate, visto i costi che hanno avuto Alexandria e Santorini. Poi vedremo se vi sarà anche l'operazione Chianti Classico, come, ma che è una cartolarizzazione sugli immobili, in realtà come anticipato oggi dal settimanale Panorama. E ancora, per quello che riguarda la borsa, oltre alla vicenda Monte dei Paschi, tra l'altro ho sentito Gotti Tedeschi oggi in procura, ma ha anche sentito il presidente della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, Gabriello Mancini. Il TAR del Lazio ha convocato per sabato 2 febbraio il direttore generale della Banca d'Italia Fabrizio Saccomanni e il responsabile della vigilanza di Banca Italia Luigi Signorini. Il Fondo Monetario Internazionale si augura che Monte dei Paschi vada avanti con il suo piano di ristrutturazione e le autorità di vigilanza continuano a monitorare, lo riconosce anche il Fondo Monetario Internazionale, da vicino la situazione del Monte dei Paschi. Questo è il fronte Monte dei Paschi. Il fronte borsa oggi vede Milano in leggero recupero dopo un'apertura molto nervosa e molto altalenante, più 1% Milano contro Parigi, meno 0,40, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,50, Nasdaq invariato, Dow Jones meno 0,15%. Per quello che riguarda invece il rapporto euro-dollaro siamo a quota 1,3573, per quello che riguarda i titoli, dicevo, oggi c'è un recupero di Saipem, anche se assolutamente non in grado di riequilibrare il crollo di ieri, quando il titolo ha perso oltre il 40%, Saipem più 3,40%, Benesti Microelectronics più 4,15%, Popolare Emilia Romagna più 3,51%, Banco Popolare più 2%, Monte dei Paschi appunto più 1,5%, anche ieri un calo di quasi il 10%, però è nel Green Power meno 1,40%. Chi va male, poca roba oggi, Luxottica meno 1,20%, Salvatore Ferragamo meno 1%, Atlantia meno 0,80%, Diasori meno 0,60%, Campari meno 0,40%, come Azimut. La pagina su Facebook di Focus Economia è il numero 349-238-6666, i due strumenti per contattare e intervenire nel programma. Rapidamente le altre notizie in breve. Indici contrastati dall'America, i sussidi alla disoccupazione salgono più delle stime, e mentre l'indice dei direttori d'acquisti di Chicago, PMI Chicago, è migliore delle attese. Lo spread italiano oggi è tornato sotto i 270 punti, a 268. Parleremo anche dell'incontro tra Mario Monti e Angela Merkel, dopo che questa mattina già aveva incontrato il presidente della UE, Herman Van Rompuy. Monti ha detto che è essenziale che il bilancio sia orientato alla crescita. Da quello che si è capito, Mario Monti avrebbe anche detto che in sostanza, senza un accento maggiore sulla crescita, l'Italia era pronta a porre dei veti a livello europeo. Sentiamo questo passaggio prima però dell'incontro che ha avuto con Angela Merkel. È essenziale, a giudizio dell'Italia, che il quadro finanziario sia orientato a sostenere la crescita economica, l'occupazione e la coesione economica e sociale in Europa. Ieri e questa mattina a Bruxelles ho incontrato il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, rispettivamente José Manuel Barroso e Herman Van Rompuy, che hanno la responsabilità di elaborare e presentare una nuova proposta. Domenica incontrerò a Parigi il Presidente Hollande. Germania, Francia e Italia sono i principali contribuenti netti al bilancio dell'Unione. Per l'Italia è essenziale che il prossimo bilancio europeo sia dotato di risorse adeguate alle ambizioni dell'Unione e promuova la crescita e la solidarietà. E sempre il premier uscente Mario Monti ha detto di essersi impegnato, a volte con durezza, a difendere gli interessi del suo paese. Una conferma è arrivata anche da Angela Merkel, che ha detto in una dichiarazione accanto a Mario Monti: negli ultimi mesi Italia e Germania hanno fatto molto per andare avanti sulla strada dell'Europa. E poi la Merkel si è detta convinta che l'Italia riuscirà a risolvere i suoi problemi interni nel giorno in cui la disoccupazione in Germania è scesa, ai minimi da 20 anni, cioè laddove è a record in quasi tutto il resto d'Europa, in Germania è ai minimi da 20 anni, al 6,8%. Non va bene la banca tedesca però Deutsche Bank, che ha archiviato l'ultimo trimestre 2012 con una perdita di 2 miliardi e 170 milioni, contro attese di una perdita molto molto inferiore a 311 milioni di euro. Il Banco Santander, banca in questo momento sotto i riflettori per l'operazione Antonveneta con Monte dei Paschi, oggi ha diffuso i dati sul 2012. L'utile è crollato del 60%, è sceso a 2 miliardi e 200 milioni, però sarebbe stato di 6 miliardi se la banca volutamente non avesse accantonato, cioè messo da parte dei soldi per l'esposizione che ha nei confronti del mercato immobiliare in Spagna, che era in bolla, poi la bolla è esplosa, è crollato, e quindi gli accantonamenti si fanno quando ritieni che avrai bisogno di quei soldi, perché nel settore e nella tua esposizione sul mercato immobiliare potrebbero arrivare perdite superiori alle attese. Il neo presidente dell'ABI, restiamo in tema di banche, delle banche italiane, che prende il posto di Giuseppe Mussari, è Antonio Patuelli, dovrebbe essere il nostro ospite tra circa 20 minuti. Parleremo anche delle sfide che attendono l'ABI. Detto questo, oggi, a proposito di banche, risparmi, ma soprattutto famiglie italiane, è arrivato il rapporto annuale dell'Eurispes che dice c'è qualche lieve cenno di schiarita all'orizzonte, ma la visione resta assai fosca e pessimista per quello che riguarda la condizione economica del paese. Il 60% degli italiani, cioè 3 su 5, sono costretti a intaccare i propri risparmi per arrivare alla fine del mese, e sempre 3 su 5 hanno grandi difficoltà ad affrontare la quarta settimana. Sentiamo questo passaggio in cui il presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara, parla di un paese bloccato. Lo fa al microfono del nostro Jacopo Matano. Ci siamo impoveriti perché siamo anche frenati dall'egoismo e dalla mancanza di redistribuzione della ricchezza. Sono saltati i meccanismi di redistribuzione della ricchezza. Sbloccare un paese bloccato si può fare recuperando il senso dell'elementarmente ragionevole e dell'elementarmente umano, cominciando a progettare, cominciando ad investire sulle donne, sulle nuove generazioni, sulla cultura, sulla formazione, sull'istruzione, sulla ricerca, su tutte quelle attività che possano permetterci di proiettarci nel futuro e di competere a livello internazionale. E sempre il presidente dell'Eurispes, Fara, dopo aver chiesto che lo Stato intervenga con le risorse anche per le imprese e le famiglie, come ha fatto per il Monte dei Paschi, ha aggiunto: l'Italia è un paese completamente malato di presentismo, che è forse un neologismo, io non l'avevo mai sentito, presentismo. Comunque, vuol dire che siamo ripiegati sempre sul presente, con azioni improvvisate, misure utili al massimo a tamponare qualche falla, comunque risposte parziali, senza visione di medio-lungo termine. Bisogna abbandonare questa subcultura del presentismo. Siamo costretti a vivere in questo grande presente che concentra in sé il passato e lo stesso futuro. Il futuro è frutto dell'impegno, è frutto di fatica, è frutto dell'investimento, è frutto dello studio, è frutto della ricerca. Noi siamo abituati ormai a vivere alla giornata, a non avere una prospettiva di noi stessi oltre la giornata. Lei si è concentrato molto sui piccoli imprenditori, che sono anche quelli più sfiduciati. Certo, anche perché i piccoli imprenditori sono quelli che devono affrontare quotidianamente problemi maggiori. Il problema della burocrazia, il problema del credito, le difficoltà nei pagamenti anche da parte della pubblica amministrazione, sono tutte cose che determinano la vita o la morte di un'impresa, specialmente se si tratta di imprese piccole, che quindi non hanno grandi capitali alle spalle, non hanno la forza necessaria per reggere l'urto, l'impatto della crisi. Abbassare, buttare più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Allora, adesso arriviamo anche al mondo delle banche e quant'altro, però sentite questa, perché abbiamo, a mio avviso, due estremi. A New York un bambino di 7 anni è stato ammanettato e interrogato per 10 ore dalla polizia, con l'accusa, poi ritirata, di aver rubato una banconota da $5 a un suo amico di 9 anni. Ora, io dico, va bene tutto, è importante dare anche dei messaggi ai bambini in età educativa, ma arrestare e ammanettare un bambino solo negli Stati Uniti alla John Wayne, si può sentire una cosa del genere, che un bambino di 7 anni viene ammanettato, ma che avete paura che fuggisse, interrogato per 10 ore, un bambino di 7 anni, ma che dovrà mai dire, l'hai presa o non l'hai presa questa banconota? Però, e lì voglio dire, poi cos'era successo? La banconota era caduta per terra e un terzo bambino l'aveva presa, ma Wilson era stato accusato ingiustamente di averla rubata. E comunque i genitori hanno sporto denuncia e hanno chiesto alla polizia di New York e alla città di New York un risarcimento da $250 milioni. A mio avviso hanno fatto benissimo. Va ben tutto, ma i metodi da sceriffo, qui chi conosce gli Stati Uniti li conosce purtroppo bene, Anche no. Però dico, da un lato abbiamo un eccesso di, visto che si parla di presentismo, oggi si può dire sceriffismo. Dall'altro invece siamo passiamo all'Italia, dove altro che il bambino arrestato e interrogato per 10 ore in manette perché ha toccato una banconota a $5. Qui i consiglieri, questa volta del PD della regione Lombardia, più che trovare la banconota da $5 per terra, avevano le mani appiccicaticce, sporche, di Nutella addirittura. Ma pensate che Carlo Sprefico, 61 anni, consigliere regionale del PD, era rimasto l'unico al Pirellone a non finire nel registro degli indagati, e adesso non c'è nemmeno lui. E dopo Nicol Cristiani, Boni, Ponzoni, Penati, tocca anche a lui. Intanto ha messo a nota spese un barattolo di Nutella da €2,70. Io vorrei un mondo in cui il bambino se frega il barattolo di Nutella, no? E Sprefico al massimo si frega €5. Invece c'è il bambino che si frega €5. Sprefico se ha caricato il barattolo di Nutella da €2,70. C'è chi, voglio dire, avrebbe voglia di dare qualcosa di simile alla Nutella a Sprefico, ma giusto come il simbolo, assomiglia alla Nutella, ma non è proprio Nutella, perché nel frattempo c'è di tutto nei 47.000 euro spesi tra il 2008 e il 2012 da Sprefico, ma magari fosse solo il barattolo di Nutella a €2,70. Durante le trasferte romane, per esempio, il consigliere democratico non ricandidato si faceva rimborsare ogni cosa, anche la bottiglietta d'acqua naturale da 75 centilitri acquistata per €1,90 sul Roma Milano. E poi due caffè che ha preso l'antico caffè greco di via Condotti. Poi, siccome pioveva, ha comprato un ombrello semiautomatico. Sono sempre €10. Per carità, se l'ha fatto caricare, ma voglio dire, spese politiche. Un po' diversa invece la vicenda della macchina, della videocamera, €1.058. Insomma, sempre come costi della politica, di rappresentanza. E poi anche la macchina fotografica Canon da €950. In tutto ha speso in 4 anni 47.000 euro di nota spese. E non tutta in Nutella. Vabbè, ce ne sono tanti altri di racconti. Addirittura un consigliere lecchese viene contestata il fatto che i rimborsi per il parcheggio per residenti, scusatemi, sono contestati tutti i rimborsi del parcheggio per residenti, ma non è l'unico peculatore. C'è per esempio il membro dell'UDC Enrico Marcora, che ha speso €2.400 per comprare varie copie di un libro d'arte, Il bene di tutti, gli affreschi del buon governo di Lorenzetti. Il sospetto però è che sia un regalo di Natale, perché l'ha comprata tutte queste copie, in tutto €2.400, tutte il 21 dicembre. E poi pranzi a destra e a manca, 11 tombole comprate da un'associazione benefica, un treppiede per la telecamera con relativa sacca per €300. Giuseppe Civati del PD si è autodenunciato invece. I PM gli chiedono conto di €3.100 in 5 anni. Molte spese sono taxi, qualche posteggio, francobolli, pernottamenti in hotel. Poi c'è Franco Mirabelli del PD, che ha destinato all'associazione Amici Zona 9 €500 per acquistare una pagina di promozione delle sue attività. Altri €2.000 li ha dati l'associazione culturale Alto Milanese. E non devono essere, dicono i PM, comunque i contribuenti a pagare i €350 del pernottamento di Mirabelli, l'hotel Quirinale di Roma. E comunque non devono neanche essere contribuenti a pagare la pubblicità che si fa all'onorevole. Ma questo è niente, ho quasi finito, con quello che è successo in Calabria. Il sottosegretario calabrese Alberto Sarra, dopo aver avuto in dono una pensione 10 volte più alta di quella dei disabili, non autosufficienti, non solo fa il cestista, ma adesso corre anche per entrare in Parlamento. Praticamente, nei primi giorni del 2010, quando ormai stava scadendo la legislatura, il deputato regionale Alberto Sarra, legislatura calabrese, viene colpito da uno shock emorragico, e questo chiaramente ci dispiace. L'uomo che di mestiere fa il legale e che è molto criticato perché è accusato di difendere personaggi in odore di 'ndrangheta, subisce un delicato intervento chirurgico, guarigione rapida, 2 settimane, poi partecipa alla nascita del Partito del Sud. Poi dopo la guarigione sostanzialmente lui riesce a fare, svolgere un'attività frenetica di incontri, convegni, inaugurazioni, trattative, e nonostante un'attività, voglio dire, incessante, altro che da invalido, lui riesce a farsi riconoscere dalla regione una invalidità totale il 13 giugno da una commissione di cui faceva parte il suo cardiologo. È permanentemente inabile a proficuo lavoro, con un'inabilità totale permanente e con un assegno mensile di 7.500 euro all'ordo delle ritenute di legge a titolo di vitalizio con decorrenza dal 7 gennaio 2010. Non ho capito perché i disabili, quelli più gravi, quelli che non sono neanche in grado di mangiare da soli o sono immobilizzati in un pomone d'acciaio, ricevono 700 euro, 800 euro massimo. Non si capisce perché di questa cifra. Tra l'altro lui anche si becca pure gli arretrati per un totale di 225.000 euro. Ora ci si chiede come faceva a fare tutte queste attività e soprattutto come fa a giocare a basket, perché è così Mona, che pubblica sul sito sovertiamo.com lui con Scopelliti, ex governatore della regione Calabria, che giocano a basket, va bene? Allora io chiudo però questa rubrica con una buona notizia che arriva dalla ULS1 di Belluno, l'azienda sanitaria locale di Belluno, dove il direttore generale Pierpaolo Faronato ha messo in vendita le auto blu, l'auto blu aziendale, e il ricavato della vendita servirà a coprire le spese per l'acquisto di due defibrillatori per un totale di 24.000 euro. Uno andrà all'ospedale di Agordo, l'altro al reparto di cardiologia dell'ospedale di Belluno. L'auto era una Mercedes E320 acquistata dall'allora direttore generale Ermanno Angonese al prezzo di 40.000 euro, già messa in liquidazione, e appunto questo è l'obiettivo. Un applauso al direttore della ASL di Belluno su quello che è successo con ad Alberto Sarra, che è invalido a 7.500 euro, gioca a basket e riesce a fare 190 incontri in pochi mesi. Non voglio fare nessun commento, dico semplicemente un po' di vergogna nelle volte, è l'inizio per un'attività anche più rispettosa nei confronti dei cittadini. Ma diamo un applauso al direttore della ASL, dai, di Belluno. Vedo che alcuni dicono che non credo ai miracoli, ma no, ma io sono contento che si sia ripreso, ci mancherebbe, il deputato regionale Alberto Sarra. Vorrei capire di più invece chi difende come avvocato, se è vero che sono in odore di 'ndrangheta, ma vorrei capire perché ha preso 7.500 euro di vitalizio più 2.225.000. Mi stanno scrivendo i genitori dei disabili e voglio dire, no, 500, 600, 700 euro, ma non si vergogna? Sarra, non si vergogna lei? No? Cioè lei è totalmente perennemente disabile, è permanentemente disabile, e riesce a fare la campagna elettorale con decine di convegni, incontri, conferenze, e vuole andare anche in Parlamento. Allora, non votatelo, chi la pensa, beh, non lo voti, ma ne frega un cavolo della par condicio oggi. Il capolista di Grande Sud, gli elettori calabresi, se vogliono rialzare la testa, oltre che la schiena e anche qualcos'altro, iniziano così. Non votate chi vi ha fregato, va bene? Va bene, si fa per dire. Allora, la borsa ha chiuso più 0,86% in questo momento, meno 0,24% Francoforte, meno 0,54% Parigi, meno 0,60% Londra, meno 0,25% l'America, in leggerissimo recupero rispetto al crollo di ieri Saipem, più 4,45%, e anche il Monte dei Paschi più 1,80%. C'è purtroppo un'altra notizia non così bella che riguarda i costi della pubblica amministrazione. Il tetto ai super stipendi della pubblica amministrazione sarà innalzato a 300.000 euro, più 3% rispetto al 2012. Non capisco il perché di una misura nel periodo in cui abbiamo l'Istat ci ha detto che la differenza tra quanto guadagnano gli italiani e quanto è aumentata la vita è arrivata ai massimi dal 1985, ma tant'è, più 3% emerge da una circolare della funzione pubblica sui limiti retributivi, in cui si ricorda che questo è il trattamento annuale del primo presidente della Corte di Cassazione. E adesso cambiamo tema, ma restiamo in quello che poi sarà il tema, il filone legato alle banche, ma non solo. È imprenditore agricolo, giornalista, ha lavorato anche al Resto del Carlino, La Nazione, Al Giorno, presidente del gruppo privato indipendente della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., nato a Bologna il 10 febbraio 1951, laurea in giurisprudenza a Firenze ed è soprattutto da oggi il nuovo presidente delle banche italiane, dell'ABI. Antonio Patuelli, buonasera. Buonasera a lei. Allora, complimenti, intanto la sento bello allegro, contento? Più che contento, sono consapevole e lo stato mio d'animo è costruttore e in positivo assieme a tutte le persone di buona volontà, di speranza produttiva per l'Italia, l'occupazione e la sana e prudente gestione bancaria e delle imprese in genere. Senta Patuelli, di sana e prudente gestione delle parti di Siena se ne è vista poca però in questo momento. Guardi, questa è una domanda a me, io sono sull'Adriatico, le devo dire invece che oggi pomeriggio come primo atto della nuova fase dell'Associazione Bancaria Italiana, assieme a Camillo Venesi, al direttore generale Giovanni Sabatini, siamo andati in Banca d'Italia dove abbiamo avuto una lunga, importante, molto approfondita riunione col governatore e i vertici della Banca d'Italia. Quanto preoccupato ha trovato Ignazio Visco, governatore? Guardi, la percezione che abbiamo avuto in questa riunione, questo incontro molto soddisfacente, è di una conferma della stabilità del mondo bancario italiano. Una conferma che peraltro in parallelo, mentre noi eravamo in Banca d'Italia, è stata espressa dal dottor Enneria, che viene da un osservatorio ben diverso, un osservatorio europeo, che ha espresso i medesimi concetti di solidità, di valutazione della solidità del mondo bancario italiano. Quindi abbiamo la consapevolezza dei problemi complessivi dell'economia produttiva e delle famiglie, ma abbiamo la forte determinazione dare il massimo del contributo che ci è permesso dalla legislazione europea ed italiana per cercare di costruire la fase successiva a questa lunghissima crisi, ovvero sia una fase di ripresa. Senta, Presidente Patuelli, quindi Visco, lei insomma vi ha dato soddisfazione, l'ha trovato abbastanza sereno? Sì, il gruppo è stato di molta soddisfazione. Ecco, lei ritiene, lo dico senza, in maniera molto molto senza ironia, ma in questo momento è più facile il suo compito, perché è più facile dopo quello che è successo fare, ricreare credibilità e appunto anche stima nei confronti dell'ABI, oppure la precedente gestione di Mussari rappresenta qualcosa ancora da metabolizzare con quello che è successo a Monte dei Paschi? Guardi, io non ho attitudine ai bookmaker, non ho mai giocato in situazioni di rischio né in casinò né ai cavalli, per intenderci, pur avendo rispetto per quelli che possono avere queste passioni, quindi io non sono in grado di fare profezie, mi permetto, avendo letto e riletto a lungo il volume fondamentale per i banchieri, che è il volume di Luigi Einaudi, La difficile arte del banchiere, e Luigi Einaudi insegna che i banchieri debbono lavorare soprattutto per consuntivi e progettare un futuro produttivo e solido. Peraltro poi il mio predecessore è il dottor Camillo Venesio, con il quale c'è una straordinaria sintonia e che ha retto in questi 8 giorni l'Associazione Bancaria in maniera molto bella. Lei è molto simpatico, ma sa benissimo che mi riferivo a Giuseppe Mussari, non agli ultimi 8 giorni. Ma, e io la ringrazio, ma in questi 8 giorni retti dal vicepresidente presidente vicario Venezio, l'Associazione Bancaria Italiana ha dato una serie di risposte pertinenti e tempestive di grande solidità e di grande convinzione. Allora, le faccio ancora una domanda sul Monte dei Paschi, poi vorrei capire invece il rapporto banche imprese, visto che ce l'ho in diretta. Ma mi dica una cosa, in questo momento quello che noi vediamo negli ascoltatori, via mail, via Facebook, via SMS, è il timore che, al di là degli scandali su cui sta indagando la magistratura, è il timore che la banca possa essere nazionalizzata, diciamo, di fondo. Allora, lei mi dica una cosa, lei come presidente dell'ABI, neo presidente dell'ABI, delle banche italiane, ritiene che il sistema complessivamente sia stabile e questo vuol dire che si possa evitare qualunque tipo di nazionalizzazione, oppure poi ogni caso è un caso che va preso a sé? Guardi, mi sembra che nel contesto europeo e comunque occidentale la crisi italiana in atto in una banca sia l'eccezione e non la regola. E nel contesto del mondo occidentale e più produttivo sono state tante di quelle altre crisi bancarie e non hanno avuto gli echi in Italia che hanno avuto nei rispettivi paesi. Quindi, per intenderci, i problemi sono di chi li sta gestendo. Le autorità di vigilanza hanno dato le loro autorevoli risposte, il governo si è espresso in Parlamento e io non ho gli elementi che hanno le autorità di vigilanza. Peraltro l'associazione bancaria che da oggi presiedo è una associazione di aziende che sono tutte imprese in concorrenza fra di loro e di conseguenza l'associazione non si occupa e non si ingerisce nelle gestioni delle imprese, ma studia le precondizioni economiche e normative comuni a tutti, perché le leggi sono uguali per tutti. O perlomeno così dovrebbe essere, viste le ultime vicende. Ma le regole, quando esco in gazzetta ufficiale, sono quelle. Ecco, Presidente Patuelli, mi dica una cosa. Noi spesso tocchiamo il tema del rapporto banca-imprese. Ora, gli ultimi dati che sono arrivati, e non sono dati nostri, sono dati anche della Banca d'Italia, segnalano una difficoltà, una stretta, soprattutto nell'erogazione di prestiti alle imprese più che ai privati. Allora, ragionevolmente, al di là del fatto retorico che tutti vorremmo che le banche prestassero soldi, che voi vorreste che le imprese presentassero piani a medio e lungo termine di progetto e non semplicemente di pagamento degli stipendi o delle spese correnti, quando è che secondo lei si potrà tornare a una normalizzazione nel flusso, sia come interessi praticati, sia come ammontare, di prestiti alle piccole e medie imprese soprattutto? Guardi, io spero. Anche perché lei ha un'esperienza importante in una cassa di risparmio locale, per cui sa benissimo. Molto radicata nel territorio. Guardi, quindi io qua vorrei più il banchiere che il presidente dell'ABI. La chiave è innanzitutto considerare le banche differenziate fra di loro e in concorrenza. E quindi la prima cosa che le dico riguardante le imprese è che se hanno problemi con una banca vadano da un'altra banca concorrente. Il problema è se tutte le banche di una realtà territoriale non considerano solido quel piano di gestione, quel piano industriale dell'azienda generalista che si va a presentare, è chiaro che probabilmente non è il caso di tutte banche cattive che sono tutte negative verso quel singolo caso, probabilmente quel business plan deve essere rivisto e bisogna capitalizzare l'azienda non solo con i quattrini delle banche. Nella sostanza dei fatti occorre che l'impegno per lo sviluppo delle imprese sia insieme degli imprenditori anche con nuove risorse e delle banche medesime. Non siamo in grado come banche italiane di poter essere gli unici che concorrono alla finanza e alla liquidità delle imprese. Gli unici no. No, però i principali sì, è un po' meno prudenza, un po' meno braccino corto, si può anche chiedere. Mi dica un'ultima cosa però, Patuelli, ma visto quello che è successo, insomma, ma chi gliel'ha fatto fare? A me è chi me l'ha fatto fare, ma guardi, prima di tutto me l'ha fatto fare l'unanimità raggiunta così presto dagli organi dell'ABI. Cioè l'hanno obbligata? Ma no, l'obbligo no, non c'è. Ma nel momento in cui tipo Confindustria, invece che avere una lunga campagna elettorale, si fossero messi d'accordo in fatto giorno, a questo punto quello che è l'oggetto della convergenza cosa fa? No, non ci sto perché voglio andare a fare il fine settimana in montagna. Mi sembra che Maiora Premont, no? Tatuelli, in bocca al lupo, perché noi siamo sempre il lupo apriamo creepy. Tanto il poi weekend, il weekend lo faccio, ma non il lupo quello che gira sulle montagne a quattro zampe. No, veramente, veramente gira più tutela, gira, il lupo metaforico, sì, per sì, gira più sui colli senesi. Ah, non questo, lo so io questo, quello. No, perché no, c'è da quello che ho letto sui giornali, i lupi girano soprattutto sui crinali appennini, sì, girano alti. Sì, però c'è una riconquista anche delle valli, del caro Patuelli. Comunque, in bocca al lupo, noi apriamo sempre credito, lei ha un compito importante su vari fronti, sia sul rapporto con le piccole e medie imprese, e anche nel ricostruire insomma una credibilità che forse... Sicuro, bisogna ragionare tutti però per essere precisi, nessuno ha la bacchetta magica, bisogna che l'Italia si indirizzi verso un approccio di maggiore capacità di ragionamento distinto, sì, nel senso che le ondate umorali, per essere precisi, non costruiscono. No, noi siamo uomini della costruzione. Fatto, lei ha ragione, bisognerebbe anche che si rubasse un po' meno, Sicuro, oltre che, ma ovunque, ovunque e sempre, per ovunque. Essere precise, ovunque e sempre. Una volta era memento audere sempre, qua è memento rubare sempre in questo paese, se continuiamo così. Comunque Patuelli, veramente in bocca al lupo, lei ha una missione importante. Ma appartiene alla mia cultura civile. Lo so. Ma lei lo sa chi è l'inventore della sigla di memento audere sempre? Mi dica. L'ha citato lei. Non era memento audere sempre? Cos'era, la decima mass? Vado a memoria? No, mi dica. No, è di vent'anni prima. È di Gabriele D'Annunzio. Non appartiene ai filoni culturali che io prediligo. La saluto e auguri e anche a tutti i suoi buon lavoro. Arrivederci. Evviva, arrivederci. No, aveva un bel compito Patuelli, importante quello che ci ha detto però dell'incontro con il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che l'ha tranquillizzato. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera. Insomma, un bel compito Patuelli. Sì, difficile credo. Difficile anche perché insomma i lupi, ha detto io cosa potevo, mica potevo rinunciare a fare il presidente dell'ABI per qualche weekend in più. C'è chi si sta facendo invece dei weekend molto prolungati, molto forzati, mi riferisco a Giuseppe Musseri. Adesso anche la moglie è sotto i riflettori per un insieme di prestiti ottenuti dalla banca di carattere immobiliare, ma in realtà la notizia grossa di oggi su Monte dei Paschi riguarda la fattispecie giuridica, potremmo dire, e cioè qua non è più l'operazione, non sono più errori, diciamo, di manager, non sono più casi di singolo manager. Ieri ricordavamo il rapporto con Dresdner Bank e quant'altro. Qui i PM sono orientati, anzi l'hanno detto, verso l'associazione a delinquere, che cambia radicalmente il profilo. Vuol dire che c'era un'associazione, un accordo per muoversi in questa direzione, prendere delle stecche fuori con i soldi di consulenza, fare favori, comprare i titoli e poi rivenderli, comprare titoli magari anche cattivi, dare titoli in cambio buoni. Il tutto non perché fossero improvvisamente impazziti questi manager, ma perché appunto ne avevano un interesse collaterale. Di collaterale c'era, potremmo dire, non tanto il derivato, ma la stecca, che deriva sempre da qualcosa di poco sano. Adesso io vedo che molti di voi criticano anche il vertice dell'ABI, perché in effetti all'ABI si era messa come presidente Giuseppe Musseri. Ora noi dobbiamo sempre partire dalla presunzione di innocenza, o meglio di ignoranza in questo caso, visto che neanche la Banca d'Italia né la Consob si erano accorte di tutto quello che c'era sotto il Monte dei Paschi, per cui anche l'ABI avrà operato in buona fede. Devo dire che sì, ci sono tanti elementi. Io trovo che Patuelli abbia un compito molto delicato, anche perché insomma, però è un profilo più basso, meno glamour di alcuni presidenti del passato, quindi magari vi riuscirà meglio. Detto questo, Fabio Pavesi, c'è una cosa che notavamo durante la pausa, sono tornati però i capitali nelle banche, notizia che abbiamo dato due giorni fa, 100 miliardi rientrati nelle varie banche, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, cioè che erano scappati per paura a maggio-giugno e gli impieghi però non... Sì. Non stanno aumentando. Il dramma è che c'è una forbice, cioè tu vedi che soprattutto gli italiani sono tornati fortemente a rimettere soldi nelle banche italiane, cioè i depositi sono aumentati nell'ultimo anno di circa il 6%. Il problema è che i prestiti alle imprese e famiglie sono diminuiti del 6% e quindi non si capisce questa ritrosia, cioè le banche non possono dire non possiamo prestare denaro perché c'è stata la fuga degli stranieri. Quella cosa lì è stata completamente colmata dagli italiani, quindi insomma, patriottismo finanziario, però a questo punto ci si chiede come mai, nonostante i depositi siano tornati a fluire, le banche abbiano ancora il braccino corto. Il tema vero sono le sofferenze. Allora, questo era mi interessava la tua chiosa, il tuo commento. Invece oggi con te parliamo, ma potremmo giocarcela come con le biglie, biglia bianca e biglia nera. Facciamo Saipem o facciamo Monte dei Paschi? Facciamo Saipem o facciamo Monte dei Paschi? In realtà sono due biglie nere, tutte e due, perché insomma di bianco lì c'è poco. Comunque, partiamo da Saipem, visto che poi abbiamo una lunga pagina proprio sul Monte dei Paschi. Oggi il titolo recupera qualcosa, ma quello che è successo ieri, obiettivamente io non l'ho mai visto accadere in 12 anni di programma in borsa. Un titolo che in una giornata lascia sul terreno più di un terzo del suo capitale, e non un titolo così volatile, leggero. Saipem, cioè... il gioiello dell'Eni nell'esplorazione, perforazione, ricerca di pozzi petroliferi, sia offshore, cioè in mare, che onshore, quindi in terra. L'unico titolo, forse il principale, che era andato in controtendenza dal 2008 in poi, continuando a crescere, rappresentando poi insomma il gioiello per i cassettisti. Tant'è che c'è chi ipotizza oggi dai Financial Times che nonostante sia un gioiello per l'Eni, l'Eni possa essere costretta a venderlo. Non, ripeto, è una discussione dei Financial Times. Qual è lo sviluppo oggi? E soprattutto si è scoperto chi ha venduto il 2,2% poche ore prima dell'annuncio, risparmiando una perdita di 100 milioni di euro e rifilandola a chi se l'è comprato, perché se l'hanno venduto a 31 euro e in un giorno ha perso 10 euro secchi. Fabio. No, lì non si è ancora capito, occorre aspettare questa inchiesta Consob che dovrà appurare. Ieri Fidelity ha smentito. Il problema vero è proprio il cambio di pelle di questa società, cioè noi chiamiamo allarme utili quando una società dice guarda il mio fatturato scende per questi motivi, tant'è che lo sconcerto soprattutto degli investitori stranieri sta proprio in questo, ma come dire, Saipem è crollata perché improvvisamente scopre che il contesto macroeconomico, cioè il settore ha qualche problema o perché è in corso una drammatica pulizia di bilancio. Propendiamo per la seconda ipotesi, perché quando tu dimezzi le stime sulla tua profittabilità evidentemente sei andato a toccare tutte quelle cose che probabilmente sono coinvolte nella famosa inchiesta sulle tangenti, e quindi lì sei andato a sgonfiare completamente quelli che erano ricavi e reddito operativo dai bilanci del gruppo, perché quando pulisci così a fondo o lo fai in modo molto prudenziale e quindi insomma complimenti al nuovo management, oppure evidentemente c'era qualcosa che non funzionava già prima. Resta il fatto che oggi il titolo risale perché la Consob ha vietato ovviamente lo scoperto, cioè la Consob comunque è intervenuta a fare un, come dire, da salvagente. Peccato che insomma i buoi erano già scappati. Si avrà notizia, cioè quando è che la Consob ci dirà chi è che ha venduto il 2,2%? Che Fidelity ha detto no, non sono stato io, è un istituzionale, l'operazione l'ha condotta Merrill Lynch. Quando è che si avrà notizia? E devono raccogliere i dati degli intermediari, andare a vedere chi è che ha intermediato quella cosa, andare a vedere i volumi e da lì risalire, quindi ci vorrà un po' di tempo, presumo. Sta di fatto che ovviamente chi ha venduto quel giorno era evidente che insomma sapeva cosa sarebbe accaduto, perché non può essere una coincidenza. Allora, di questo, dopo aver avuto il nostro ospite, il neopresidente dell'ABI Patuelli, Fabio Pavesi ci ha raccontato Saipem. Dopo il GR invece ragioneremo anche del Cotè su Saipem, ma soprattutto dei rischi. Patuelli ha detto, ho visto Visco poco fa, mi ha rassicurato. Noi ne ragioneremo con Alessandro Pratelotti, vice direttore del Sole 24 Ore. 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e andiamo senza soluzione di continuità dalla vicenda Saipem all'altra grossissima vicenda che continua a tenere banco anche oggi. Mi riferisco al Monte dei Paschi di Siena. Però su Saipem c'è qualcosa, giustamente lo dicono anche gli ascoltatori sia su Facebook che al 349-238-6666, c'è qualcosa che ancora non torna. E non sto parlando solo del sapere come mai qualche uccellino ha dato un'imbeccata a chi aveva il 2,2% che ha venduto qualche ora prima, risparmiando di perdere 100 milioni di euro e facendo di perdere sostanzialmente a chi ha comprato Saipem a 31 euro per azione, visto che adesso ne vale 20. No, c'è qualcosa che non torna, perché, dicevo, in 12 anni non mi è mai capitato di vedere la capitalizzazione di borsa di un titolo ridursi di quasi la metà in una seduta. Cioè, ma per carità, forse sarà successo in qualche titolo minore, volatile, non Saipem, che ha una forte connotazione industriale, è un gioiello del gruppo Eni, è la fusione anche di Snam Progetti, ha dentro anche Snam Progetti, cioè la parte più ingegneristica, più di competenze del gruppo, vanno a esplorare, a fare gli impianti, a cercare il petrolio in giro per il mondo, sono tra i migliori. Per un profit warning, non so, forse mi sfugge qualcosa, Alessandro Platerotti. Beh, certamente il giallo comunque non è destinato a durare a lungo, per due ragioni. Primo, ci sono degli obblighi di comunicazione che valgono tanto in Italia quanto negli Stati Uniti. Se è vero, come sappiamo, che l'operazione si è originata in America tra Londra e New York, beh, allora entro 5 giorni dalla chiusura del mercato, in questo senso la prima operazione sarebbe stata fatta venerdì e poi la seconda lunedì, per posizioni rilevanti, ovvero superiori al 2%, come questo, c'è un obbligo di legge di comunicare chi è che ha effettuato l'operazione per conto di chi. Questo significa che probabilmente già entro questo venerdì, per la parte italiana, potrebbe esserci un obbligo di comunicazione che ci rivela chi è stato. Questo avverrà sicuramente invece negli Stati Uniti, dove basterà tenere d'occhio il sito della Securities and Exchange Commission, la SEC, che è l'equivalente della nostra Consob, per vedere appunto nelle note degli emittenti chi ha venduto che cosa e per conto di chi. Ricordiamo che questo è molto importante, perché mentre in Italia non c'è un obbligo di comunicazione dettagliata da parte della Consob, non dico delle partecipazioni rilevanti, ma di qualunque comunicazione che riguarda un emittente, negli Stati Uniti c'è un obbligo di legge perché ciò avvenga. Ecco, detto questo, è possibile, Fabio Pavesi diceva, hanno fatto pulizia, lì tutto nasce con questa, con l'allontanamento del numero uno della Saipem dopo l'inchiesta per tangenti in Algeria col colosso Sonatrach algerino. Però è possibile che sia stata fatta così tanta pulizia da dimezzare quasi il valore del titolo, ridurlo di un terzo? No, e qui in questo senso c'è l'effetto emotivo del mercato. Che cosa sta avvenendo in Saipem sostanzialmente e in Eni? Che quando il vertice dell'Eni ha deciso di sostituire il presidente della Saipem, ha anche avviato un'opera di verifica di che cosa? Della reale consistenza dei contratti. Qui non stiamo parlando di tangenti o delle inchieste, stiamo parlando semplicemente di come, di quanto soprattutto era l'entità, il guadagno potenziale dell'Eni quando conquistava un contratto. Lì bisogna pagare i contratti, quindi c'è un costo e poi c'è un rendimento. Il rendimento che veniva dichiarato, sembra di capire, agli analisti e all'azienda di questi contratti era decisamente inferiore rispetto a quello che si sapeva. Allora il mercato come ha reagito? Ha reagito con due ragionamenti. Il primo è: quando si fa un'opera di pulizia come quella che è partita adesso, sai da dove parti ma non sai dove arrivi. Cioè, certo, quanti e per quanti anni i contratti non erano realistici nel loro rendimento rispetto a quanto veniva dichiarato. Seconda domanda, che è quella che probabilmente pesa di più, è: possibile che tutto ciò avviene sempre in Italia? E questo non è un fatto secondario, perché veniamo dal piano dello scandalo del Monte dei Paschi che, e sinceramente, soprattutto lo dico, questo gioco al massacro che sta avvenendo tra le autorità, nei confronti delle autorità, sta aumentando quel clima di sfiducia che si nutre nei confronti del mercato italiano. Non siamo acqua torbida, l'opera di pulizia viene fatta. Ecco, io credo che già il rimbalzo che ha avuto oggi il titolo della Saipem significa che un minimo di realismo e concretezza sta tornando anche sul mercato. Sì, dopodiché non accetto lezioni da tedeschi e inglesi sulla trasparenza dei bilanci bancari, perché se andiamo a vedere quanto hanno salvato i tedeschi e le loro banche, gli inglesi e le loro, e per non parlare di società in generale, perché noi ci siamo bevuti, qualcuno se la ricorda la storia di Jérôme Kerviel, che da solo con un'operazione sui derivati aveva fatto 5 miliardi di buco alla Società Generale e nessuno lì ha detto ma come un ragazzino di 31 anni non può fare 5 miliardi di buco sui derivati. Lì in Francia tutti hanno preso per buono che fosse il mitico, anche JP Morgan anche ha perso quasi 3 miliardi di euro, il mitico derivati. Jérôme Kervière. Quindi ognuno si guardi in casa sua, no, lo dico in maniera molto tranquilla, perché io dalla Francia, Germania e in Gran Bretagna sul tema delle speculazioni bancarie a rischio non accetto lezioni, perché stiamo ancora aspettando di capire cosa sia successo. Interessante infatti invece quello che tu dicevi sulla Saipem, cioè se c'è stato un modo di esagerare i guadagni. E vi dirò di più, i contratti riguardano il Brasile soprattutto, ecco. Il paese su cui ci sono in questo momento concentrate la maggiore opera di pulizia sono i contratti che sono stati stipulati in Brasile. Per quale motivo? Curiosamente fino a qualche anno fa, 2-3 anni fa, si pensava che il Brasile fosse il nuovo Eldorado dell'industria petrolifera, grandi giacimenti offshore, e in realtà si è rivelato una sorta di flop. E lì il rischio può essere che l'ex vertice abbia gonfiato i guadagni da questi contratti che sarebbero derivati alla Saipem e all'Eni, e quindi si creano incertezze su tutto il resto. Veniamo invece alla vicenda Monte dei Paschi, perché a questo punto il primo aspetto è, mi sembra di capire, ormai i magistrati ritengono che tra Mussari, Baldassarri, Toccafondi e Vigni, sono alcuni degli quindi l'ex presidente, l'ex responsabile della finanza, il suo vice e il direttore generale, vi fosse un'associazione per delinquere. Questo cambia, Alessandro, il puzzle che fino adesso abbiamo cercato di ricostruire. Cioè c'era la vicenda di una banca come Antonveneta pagata in maniera eccessiva, c'erano questi strumenti derivati creati per far cassa, per riuscire anche a trovare capitale per questa acquisizione, poi c'erano delle operazioni palesemente sospette, se non fraudolente, come quelle realizzate con Dresdner Bank, in cui tu vai a comprare titoli cattivi da Dresdner, gliene dai quelli buoni, ti fai pagare paghi un terzo con una commissione, lì l'ipotesi di una stecca. Cioè, però erano tutte cose che restavano, diciamo, come episodi singoli. Mi sembra che la procura si orienti verso una ipotesi di sistema, purtroppo. Ma io direi questo: il mosaico che ne comincia ad emergere ha alcuni tasselli che reggono un po' tutti gli altri, e questi sono già ben chiari. Il primo tassello è che questa era una banca che era gestita in modo del tutto dissennato. Cioè il primo punto di partenza è che è fallito quel tipo di modello virtuoso che si presentava il Monte dei Paschi, dove una fondazione tutta impegnata nel sociale, una sorta di welfare locale, sì, alternativa a quello dello Stato, integrativo direi in questo senso, e nel, diciamo così, gestito nell'interesse collettivo. In realtà questo interesse collettivo veniva amministrato da manager che non erano all'altezza della portata delle masse amministrate che aveva il Monte, e soprattutto della fiducia che gli viene accordata non solo dai correntisti, dai clienti, ma anche dal mercato, perché ricordiamo che ci sono centinaia di miliardi, ma insomma di vecchie lire, ma sono sicuramente centinaia di milioni di euro di obbligazioni fuori, certo, sul mercato, che sono state comprate dai risparmiatori. Secondo punto, l'associazione a delinquere. Beh, qua a questo punto basta che tre persone si mettano d'accordo per spartirsi una parte della torta, certo, che diventa un'associazione a delinquere. È ovvio che qua c'era un sistema di connivenze e di coperture fra alcuni dirigenti del Monte che sicuramente si presta ad essere analizzato come forma di associazione a delinquere. Ma quello che i magistrati, diciamo così, si stanno piano piano rendendo conto è che più che un sistema, intendo dire strutturato a livello di cupola, si trattava veramente di alcune parti della banca che erano totalmente fuori controllo, per cui era possibile che dirigenti si appropriassero di risorse della banca o di parte di transazioni che faceva la banca senza che nessuno verificasse o dicesse nulla. E quella che insomma per strada si chiama cresta su operazioni che riguardavano il Monte e questa l'abbiamo spiegata ieri in riferimento alla finanziaria Lutfin. Poi c'è l'ultimo capitolo, scusami, chiudo, che è quello della tangente, della famosa tangente di 2 miliardi. Sta continuando a lavorare, ma per il momento non ci sono elementi. Quella sarebbe poi, diciamo, cambierebbe ulteriormente il profilo. Dopo il traffico ho per te l'ultima domanda, Alessandro Praterotti, e cioè in realtà quello che temono molti ascoltatori che sono obbligazionisti del Monte dei Paschi, ma quello che poi per motivi politici viene usato come una clava nella campagna elettorale, a dire attenzione, Monti ha salvato il Monte dei Paschi e in realtà di fatto l'ha nazionalizzato, perché il Monte dei Paschi non riuscirà mai a ripagare i 3 miliardi e 9 che ha avuto di prestito dallo Stato a tasso di interesse che parte al 9% ma poi diventa via via anche più alto, e quindi di fatto poi lo Stato entrerà con una quota dentro il Monte dei Paschi. Dunque torniamo sull'inchiesta giudiziaria fra poco con la nostra Raffaella Calandra che è a Siena, però Alessandro Praterotti, per concludere, insomma, al di là di quello che scoprirà la magistratura, qui ce la farà il Monte dei Paschi a ritornare un prestito che gli costa dal 9% in su, oppure di fatto fra qualche mese lo Stato dirà bene, non ce la fai a ripagarmi, quindi come previsto anche dal prestito, io trasformo il prestito in una quota della banca, quindi di partecipazione della banca. Allora, tutte le analisi che sono state effettuate dai tecnici delle banche di investimenti che si occupano a tempo pieno di valutare questi aspetti sostengono che il Monte non sarà in grado di ripagare la prima tranche. Qui non si sta guardando all'arco completo del periodo, ma esclusivamente anno per anno, perché questo stabiliscono i Monte Bond. Per il primo anno le analisi dicono che il Monte non sarà in grado. Che cosa potrebbe accadere perché questo non si concretizzi? Un'impennata improvvisa dell'economia italiana già da adesso, dai prossimi mesi, tale da una improvvisa recupero di valore straordinario dei BTP, questo aumenterebbero ad aiutare l'attivo del Monte dei Paschi di Siena. Quindi se queste ipotesi si concretizzano, non dovrebbe esserci l'intervento pesante dello Stato. Se invece non si verificheranno come dicono gli analisti, allora dobbiamo prepararci a fare i conti carta e penna per capire che cosa succede. Prendiamo la prima ipotesi: il Monte non paga la tranche alla fine dell'anno, la prima tranche che deve. Che cosa succede? Il decreto che ha istituito i Monte Bond, scaricabile dal sito del Ministero del Tesoro, dei nostri ascoltatori, se vogliono possono leggerlo lì. Che cosa dice? Dice che a quel punto il Monte, se non ha i soldi, deve emettere delle nuove azioni a favore del Tesoro. Sulla base di che cosa? La media dei prezzi degli ultimi 10 giorni precedenti l'emissione. Se prendiamo i valori attuali a 0,24 euro, sostanzialmente lo Stato dovrebbe avere, termine primo anno, il 13% del Monte dei Paschi di Siena. Questo è il calcolo che viene fatto. 13% è una quota significativa, è una quota di minoranza, perché ricordiamo che la fondazione è ancora sopra il 40%, per cui sicuramente questo non gli darebbe l'azionista di maggioranza. Però ci sono altre problematiche. Prendiamo lo scenario 1. Lo Stato entra, ma poi il Monte si riprende e comincia a restituire i soldi. A quel punto ci sarebbe all'interno della banca un azionista nuovo che però non ha nessun potere di governance, perché quando dico governance significa sedere nel consiglio di amministrazione e stabilire le scelte. Per quale motivo? Perché guarda un po', nel decreto si sono dimenticati di inserire questa parte. Che cosa avviene se il Monte, loro hanno previsto soltanto il pagamento delle azioni, ma la governance dov'è? Questo sarà sicuramente soggetto a un intervento che verrà, quindi siamo pronti, perché il governo dovrà stabilire tecnicamente che cosa farà. In America si era deciso, per esempio, ma anche in Inghilterra, che nel momento in cui una banca emette azioni a favore dello Stato, cioè viene salvata dallo Stato, lo Stato mette i suoi rappresentanti nel consiglio, dove restano e governano. Allora, mettiamo che il Monte, ecco, ci siano anche dei rappresentanti in consiglio perché lo Stato mette i propri rappresentanti. Questo significa un cambiamento di scenario radicale per l'investitore. Per quale motivo? Perché una banca che viene gestita anche dallo Stato sarà una banca che si muove come un BTP, più che prudenziale. Dimentichiamo operazioni straordinarie, dimentichiamo acquisizioni, dimentichiamo utili, cedole, pagamenti di dividendi, perché tutto va al rafforzamento della banca, perché la logica dell'intervento pubblico è quella di rimettere la banca in condizioni di camminare. E poi meri dai soldi. Per cui bisogna stare attenti a questo. Che è quello che abbiamo visto accadere, per esempio, in Gran Bretagna con la Royal Bank of Scotland, cioè con varie iniziative in cui lo Stato dice bene, adesso tu però fai quello che dico io. Anche Citigroup in America. Tu farai quello che dico io e quindi massima prudente gestione, e in modo che il prima possibile riesci a ridarmi la quota che ti ho prestato. Il problema del Monte, questo è bene che sia chiaro perché riguarda il Monte, l'esempio più importante in questo senso, le banche come il Monte per rientrare in un equilibrio economico dovranno necessariamente tagliare i costi. Oggi come oggi, tagliare i costi significa tagliare il personale e questo potrebbe essere uno dei correttivi più immediati, purtroppo per i dipendenti, per rimettere a camminare la banca. Sì, tra l'altro faccio notare che tu citavi la gestione, insomma, il Monte dei Paschi tra il 2009 e il 2012 il valore dei derivati nel bilancio Monte dei Paschi è salito da 9 miliardi e 8 a 18 miliardi. Ora io dico, ho capito che il derivato non è sempre male, ma con quello che era successo nel 2008, questi hanno continuato, oltre a fare operazioni spregiudicate, poi vedremo la magistratura se stabilirà stecche o non stecche, a imbarcare da un lato in pancia titoli di Stato, dall'altro a avere una dimensione abnorme dei loro titoli derivati. Cioè è una banca veramente schizofrenica a quel punto. No, io posso dire questo, mi ricorda molto, possiamo dire più che di schizofrenia, è come quel giocatore che perdendo al tavolo da poker tira fuori prima l'orologio, poi tira fuori le chiavi di casa, poi quelle della macchina, sperando così che con una nuova puntata rientra di quello che ha perso. Questo è quello che è accaduto al Monte. E come sappiamo poi rischi di peggiorare ulteriormente la situazione, questo al di là I clienti del Monte dei Paschi, no, a questo punto non rischia nulla, abbiate pazienza. Se lo scenario più... guardate, ve lo dico in due parole, no, perché è importante. Se lo scenario è che... c'è una legge che ha istituito un fondo di tutela dei depositi. Sì. Questo fondo garantisce tutti i correntisti fino a 100.000 euro. Ma poi se entra lo Stato, abbiate... di tutte le sfighe che può dire l'intervento statale, a me un vantaggio ce l'ha e la banca non salta. E bene, cioè, bisogna anche tenere conto di un altro aspetto: nessuna banca in Europa, ma anche se scusiamo il caso di Lehman Brothers in America, che è stato l'unico, è mai fallita. Qui non è, questo non è un sistema in cui si lascia una banca alla deriva e i correntisti abbandonati nella tempesta. Questo è un sistema che tende a salvare non solo le banche, ma a salvare se stesso in questo modo, perché ricordiamo che questo è un sistema bancocentrico, ma va, dove le imprese si reggono, no, no, proprio e i risparmiatori. Altra cosa se sei un risparmiatore di diverso tipo o un piccolo imprenditore. Un obbligazionista senior non rischia quasi nulla, no. Un obbligazionista con un titolo subordinato potrebbe perdere il pagamento delle cedole in questo senso, ma non perde il capitale. No, ma è vero, comunque nessuna banca è stata fatta fallire, too big to fail. Si diceva una volta, se sei un piccolo imprenditore, un piccolo artigiano, è tutta un'altra storia, un'altra vita. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore. E quindi stiano tranquilli i correntisti del Monte dei Paschi, anche gli obbligazionisti del Monte dei Paschi. Lo Stato, guardate, noi continuiamo a dirlo da giorni, c'è chi mi ha detto lei ha fatto allarmismo, ma no, non c'è modo in cui il Monte dei Paschi potrà ripagare. O l'economia italiana riparte al 3%, ma non mi sembra il caso, in cui potrà ripagare il prestito dello Stato. Quindi lo Stato, entra il governo, entrerà il tesoro nel capitale del Monte dei Paschi, fine. Detto questo, è già successo in Gran Bretagna, si sono salvati pezzi interi di banche intere, e anche in Germania, con cifre di decine di miliardi di euro in Germania, centinaia di miliardi di euro in Gran Bretagna, per cui nessuna verginità, nessuna mezza vergine. Però diciamoci le cose come stanno, il Monte dei Paschi verrà salvato dallo Stato italiano. Raffaella Calandra, mi sembra che invece la posizione, per essere buoni, dei vertici del Monte dei Paschi, come ricordavamo, si stia complicando. Associazione per delinquere. Ma l'associazione per delinquere, va anche detto che è un reato molto pesante, ma che è anche un reato che, come dire, è un reato contenitore, è un reato ampio che in qualche modo dà la possibilità ai magistrati, nel momento in cui ritengono che ci sia una prosecuzione di un disegno, ecco, di poter avere anche più strumenti investigativi. Va anche tenuto conto di questo aspetto, strumenti investigativi come le intercettazioni. Quello che si sta complicando qui a Siena è il quadro dell'inchiesta, che oggi con due interrogatori molto importanti è entrata in due aspetti delicatissimi dell'indagine. Da una parte 4 ore di interrogatorio per Ettore Gotti Tedeschi, appunto l'uomo in Italia del Santander, nonché ex presidente dello IOR. Dall'altra parte, subito dopo, il presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Gabriello Mancini. E con l'interrogatorio di oggi, anche se entrambi sono stati sentiti solo come persone informati sui fatti, ma con l'interrogatorio di oggi la Fondazione del Monte entra esplicitamente e direttamente e sensibilmente, permettetemi di dire, anche all'interno di questa inchiesta. Con Gotti Tedeschi l'interrogatorio è andato soprattutto intorno a quelle che sono state le operazioni dell'acquisto di Antonveneta, anche se per ammissione della stessa advisor di Santander, ossia Rothschild, Gotti Tedeschi era stato tenuto fuori da questa operazione su esplicita richiesta del numero uno degli spagnoli, ossia Boten, in nome di una totale riservatezza. Ma subito dopo che quell'acquisto per i famosi 10 miliardi che rappresentano un po' il peccato capitale qui di Rocca Salimbeni, questo acquisto è avvenuto, Gotti Tedeschi è stato coinvolto e di questo ha parlato con i magistrati, ma pare anche di alcuni documenti che avrebbero trovato da lui dopo la perquisizione disposta dalla Procura di Napoli nell'inchiesta Finmeccanica. organica, che quindi coinvolgono il suo ruolo anche da presidente dello IOR. Altro fronte, quello della fondazione, con il presidente, dicevamo, Mancini, la fondazione che è prima azionista della banca, ma che in questa occasione deve rispondere, tra le altre cose, anche di quel famoso fresh da 500 milioni su cui i magistrati, diciamo, sembrano nutrire non pochi sospetti. Ad una domanda esplicita che ho fatto a Mancini su questo, lui ha risposto con un'alzata di spalle ed un sorriso, non potendo dir nulla, ha detto, ma evidentemente è ben consapevole di quanto il tema sia delicato, quello del coinvolgimento in qualche modo della fondazione, che qui per Siena è uno degli dei pilastri. Sì, Raffaella, tu hai ben chiarito come ormai si stia, diciamo, al di là dei casi singoli, ricordavamo ieri tutta la vicenda di Dresner, lo ripeto ancora una volta, e dei vari Baldassarri, Pontone, la banda del 5%, ma queste sono cose, poi però non è che una banca la distruggono due direttori come Pontone e Baldassarri. Le operazioni che abbiamo visto fare sono operazioni talmente assurde che ci deve essere un sistema dietro, lo dico chiaramente. Poi Le Boutin è quello che piace a noi, Raffaella, che fa le scarpe, la donna, invece Boutin è quello del Santander. Sarebbe interessante sapere come ha ottenuto di vedersi pagata Antonveneta 9 miliardi, avendo appena lui pagato 3 giorni prima 6 a ABN AMRO. Troppa grazia Sant'Antonio anche in questo caso. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, che continuerà a restare a Siena anche domani, non in punizione ma in inchiesta, per capire che cosa uscirà anche dalla procura di Siena. A me non resta, nonostante tutto, che augurarvi una buona serata. Tranquilli sui conti correnti del Monte dei Paschi, non c'è nessun problema per i correntisti, non creiamo panico inutile. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.